La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, siamo all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Il Natale cinematografico spara i suoi penultimi colpi in questo fine settimana, ci sarà spazio ancora per qualche film natalizio proprio nell'uscita del 23 dicembre a ridosso della Santa Festa, ma anche questa settimana è particolarmente significativa e poi il panel dei film che per 15-20 giorni invaderanno i cinema nell'altissima stagione cinematografica sarà fatto. Questa settimana arrivano 5 nuovi film, di 4 di questi ci occuperemo, qualcosa di molto interessante, qualcosa di molto popolare nel cinema di Natale, ma prima voglio dirvi una cosa, perché essendo Natale voi direte siamo tutti più buoni, non solo, a Radio 24 vi facciamo anche i regali. E allora alla fine della trasmissione, voi quindi state con noi fino alla fine, godetevi quest'ora di cinema e poi alla fine giocheremo, vi svelerò tutto dopo, per vincere una Smart Box, un cofanetto regalo con una scelta fra 435 attività tra gastronomia, sport, benessere, arte e cultura per due persone. Quindi state con noi fino alla fine, perché alla fine ci sarà la possibilità di giocare e vincere una Smart Box. E adesso i contenuti della trasmissione nei titoli di testa. Scatenato, raffinato, illuminato, Sherlock Holmes al secolo Robert Downey Jr. è di nuovo sul grande schermo con la seconda avventura della nuova saga, Gioco di Ombre. Al suo fianco l'immancabile Watson, per nulla elementare, interpretato da Jude Law. Raccontare l'America di oggi, i suoi intrighi, i suoi scandali, attraverso la lente di ingrandimento della politica. Lo fa George Clooney, regista e protagonista de Le Idi di Marzo, film d'apertura della passata mostra del cinema di Venezia, con un cast tutte stelle. Da una costola di Shrek arriva nei cinema italiani Il gatto con gli stivali. Spadaccino, seduttore, fuorilegge, il gattone dagli occhi languidi salverà la sua città grazie all'aiuto della bella Kitty Zampe di Velluto. Finalmente la felicità. Torna Leonardo Pieraccioni alle prese con la paternità della sua nuova commedia natalizia e lancia una nuova bellissima, Arianna Romero. Parliamo allora di cinema italiano, parliamo di una commedia che dovrebbe rappresentare, insieme a qualcun'altra, ma insomma forse più di altre, il nostro cinema, la nostra commedia tradizionale durante il periodo natalizio. Parliamo, l'avrete capito, di Leonardo Pieraccioni, del suo ritorno al cinema con Finalmente la felicità. Leonardo Pieraccioni che è anche protagonista del film, insieme alla coppia di belli Ariadna Romero e Thiago Alves, e insieme anche a Rocco Papaleo. Ci facciamo raccontare tutto dalla nostra Barbara Righini. Io mi chiamo Luna, sono brasiliana. Noi non ci conosciamo personalmente. Innanzitutto volevo dirti che mi spiace davvero per la morte di tua mamma. In fondo non lo sai, però era anche un po' la mia. Lei mi aveva adottata. Adottata? Che è uno scherzo di Vittorino Arosini? È così che Benedetto, un insegnante di musica, vita ordinaria e sogni ormai accantonati, fa la conoscenza di Luna attraverso il programma C'è posta per te. Bellissima, come sempre lo è la protagonista femminile nei film di Pieraccioni, Luna affascina subito Benedetto e diventa l'unico suo interesse. Animato da buoni sentimenti, parte per la Sardegna per conquistare il cuore della ragazza, ma dovrà vedersela con l'ex fidanzato di lei, che ha il volto del prestante Thiago Alves. Luna, sei qui? Oddio, lo sapevo, è venuto per vedere se è vero che io e te stiamo insieme. Luna, ci sei? Io e te stiamo insieme. Per togliermelo di torno, le ho detto che sei il mio ragazzo. Scusami, dov'è Luna? Allora, dov'è Luna? Io e Luna si sta insieme da 3 mesi e lei è a letto. Posso parlarle un attimo? Sì, però calmo, calmo, se no chiamo la vicinanza. Qualche risata, Pieraccioni al suo 10° appuntamento con il Natale la strappa, ma forse distratto dai recenti impegni familiari con l'arrivo di Martina, la sua primogenita, il regista e attore sembra avere perso convinzione e smalto. La formula è stanca e l'accento toscano non basta più a suscitare simpatia. Funziona meglio la prima parte del film, ma con la trasferta da Lucca in Sardegna tutto diventa troppo prevedibile. Pieraccioni ne approfitta poi per dispensare qualche consiglio, cercando di espandere la sua visione positiva della vita. Il bene che si fa, sostiene il regista, torna sempre indietro e ne è proprio convinto. Il bene si torna, ci credo nella maniera più assoluta, laddove tu c'hai un po' di pazienza. Il film finisce con questa frase che dice: se si sanno aspettare le cose arrivano. Certo, ci vuole una pazienza che non è quella del weekend, bisogna aspettare anche anni. E quello che sembra divertirsi di più è proprio Leonardo Pieraccioni. Io ho detto sottovoce: facevi il magazziniere, e non è per giocare al ribasso, ma avevo solamente un obiettivo nel mondo mio, che era quello di vivere di questo mestiere. È andata talmente bene che se non mi divertissi sarei un benedetto bischero. Finalmente la felicità, l'auspicio, l'augurio, il titolo del film di Leonardo Pieraccioni, che potrà trovarsi, sicuramente si troverà nelle parti alte della classifica il prossimo weekend, cosa che non sono riusciti a fare i nuovi film dello scorso weekend, che invece non hanno per niente scalzato la classifica, sempre guidata da Midnight in Paris di Woody Allen, con un incasso complessivo che ormai si avvicina ai 7 milioni di euro. La rosa purpurea. Che cosa vede? Tutto. Questa è la mia condanna. La condanna di un detective troppo dotato, troppo avanti, come si suol dire in questi casi, che è appunto Sherlock Holmes. Avete sentito una clip tratta dal nuovo film, il secondo della nuova saga che ha ridato grande vitalità a Sherlock Holmes, a un personaggio che era restato, anche nonostante tante trasposizioni cinematografiche, molto molto letterario, e che invece ha cambiato un po' volto dopo la prima versione cinematografica firmata da Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. nei panni appunto di Sherlock e Jude Law in quelli di Watson. Li ritroviamo entrambi al loro posto in questo secondo film, Sherlock Holmes, Gioco di Ombre, che acquisisce nel cast Noomi Rapace, la prima protagonista anche dei film della trilogia di Stieg Larsson, e Stephen Fry, grandissimo attore inglese, nei panni del fratello di Sherlock Holmes. La storia, piuttosto intricata sotto il profilo della trama, perché ci sono tanti affluenti all'interno della storia principale, parte con una bella esplosione di bombe di presunta matrice anarchica a Strasburgo e a Vienna, con scandali che investono magnati del cotone indiani, industriali dell'acciaio americani, eventi che sembrerebbero agli occhi di una persona comune del tutto casuali, ma che non lo sono affatto agli occhi di Sherlock Holmes. Oh, come mi è mancato Holmes. Io non ho quasi notato la sua assenza. Sono immerso nel caso più importante della mia carriera. Cosa dobbiamo affrontare? La mente criminale più formidabile d'Europa. Il professor James Moriarty. Se lo fermeremo, forse impediremo il crollo della civiltà occidentale. Faccia con calma. Obiettivo ambizioso per Sherlock Holmes, il declino del mondo occidentale da fermare, fermando questo criminale, questo professor Moriarty, che secondo Sherlock tiene le fila di tutti questi fatti di cui abbiamo parlato in precedenza. Moriarty è un uomo dall'intelligenza superiore, privo di qualsiasi morale, e quindi insomma il duello si preannuncia molto interessante. Peraltro è un duello che scavalla da una parte all'altra dell'Europa, dalle nevi dell'estremo est alla Germania, abbiamo detto appunto, ovviamente con passaggi in altre nazioni e ovviamente con la presenza nell'appartamento londinese. Ora, tutto questo tenderà, fra mille scoppietti, inseguimenti, tantissima azione, tenderà a una sorta di duello finale che si giocherà molto poco metaforicamente, come una vera e propria partita a scacchi, una partita a scacchi in un castello, in un maniero svizzero, arrampicato su uno strapiombo con tanto di cascata, e mentre Moriarty e Sherlock Holmes giocheranno a scacchi si andranno a definire le sorti di questa vicenda. Ora, questo è un po' il racconto della storia, della trama di questo Sherlock Holmes, ma è un film che ovviamente non può fermarsi semplicemente alla trama, è un film che, come sempre, ci mette in scena rapporti fra persone e personaggi che sono veramente degni della più alta letteratura. Sembra alquanto eccitato. Frenetico. Lo sono. Direi quasi estatico. Psicotico. Dovrei darle un sedativo. A partire ovviamente dal rapporto fra Sherlock e Watson, insomma, si è scritto molto anche in precedenza, in occasione del primo film, di un rapporto che va ben oltre la solidarietà maschile, insomma una complicità che sfocia nell'omosessualità, diciamo più che latente, non denunciata sotto il profilo visivo, ma sicuramente presente. Il fatto stesso che, per esempio, Sherlock strappi dalla sua luna di miele il povero Watson, che si era appena sposato e voleva partire, invece lo trascini a Parigi per la sua vicenda, per andare dietro a Moriarty, con tanto di battaglia che mima in maniera abbastanza evidente un amplesso fra i due, è un elemento, ma insomma c'è una complicità, una dipendenza fra i due personaggi che è sicuramente molto divertente, molto ben raccontata, che aggiunge un elemento nuovo, se vogliamo, a questo personaggio. Quanto agli elementi, nel primo film avevamo imparato a trovare uno Sherlock Holmes innovativo, un tossicodipendente, un bohemien vagabondo, trascurato, ma molto raffinato insieme. Ecco, tutto questo lo ritroviamo assolutamente tale quale in questo secondo film, anzi sembra che Guy Ritchie, riuscendo a liberarsi anche del compito, diciamo così, di raccontare e descrivere personaggi e ambienti, possa partire con il pedale dell'acceleratore pigiato sin dal primo minuto, forse anche troppo, forse il limite di questo film sta nella prima parte, nei primi 40-45 minuti, dove l'azione è tanta ma non è spiegata e lo spettatore si trova veramente sballottato in mezzo a queste esplosioni, inseguimenti, treni che corrono e eccetera eccetera. Poi però, quando si cominciano ad unire i famosi torrenti, i famosi affluenti di cui vi parlavo prima, narrativi, nell'unico grande fiume della storia, beh, da lì in poi vengono fuori anche meglio i rapporti fra i personaggi di cui abbiamo parlato. Eccezionale il fratello di Sherlock Holmes, interpretato da Stephen Pfeiffer, come dicevamo prima, che smorza quasi il carattere del fratellino e diventa un elemento anche di comicità importante. Insomma, un film nel quale non ci si annoia assolutamente dall'inizio alla fine. Questo secondo Sherlock Holmes, Gioco di ombre, è il sottotitolo. È un film che sottolinea che forse davvero per una volta il cinema ha saputo fare in questi anni recenti un'operazione che non è solo di maquillage, ma è di grande rilancio di un grande nome, di un grande personaggio della storia letteraria internazionale. Prendiamoci una piccola pausa da Sherlock Holmes, torneremo fra poco a parlarne ancora, perché vogliamo farvi sentire anche qualche parere e le voci, la voce di Robert Downey Jr. Giochiamo insieme, cominciamo a giocare con il nostro Blu-ray Game di questa settimana, prima traccia del film misterioso. Allora, ok, senta, noi non abbiamo idea di cosa stia succedendo, ma... Hanno un distillato di prugne qui da sballare, cazzo. Vi giuro, è una cosa che ti manda fuori di melone. Oh, scusate, voi siete già fuori di melone. La Rosa Purpura @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi ci saranno altre due possibilità. Ritorniamo con le musiche originali di Sherlock Holmes, Gioco di ombre, nell'atmosfera sherlockiana del film di Guy Ritchie, per ascoltare la voce del protagonista principale, ovvero Robert Downey Jr. nei panni appunto di Sherlock Holmes. Abbiamo detto prima in sede di analisi un po' di questo rapporto molto molto dipendente che c'è fra il personaggio di Sherlock e quello di Watson. Sentiamo cosa ne pensa in questo senso Robert Downey Jr. Amo la sua dipendenza da Watson. Mi piace il fatto che abbiamo trovato un modo per far sì che il pubblico non lo giudichi perché scava un solco tra lui e sua moglie. Credo che sia qualcuno che ha bisogno di essere curato in modo da poter fare quello che sa fare al meglio. Robert Downey Jr. quindi. Ora sentiamo un po' qual è il parere però di chi Sherlock Holmes, come dice, lo vive come un mito letterario e cinematografico da tanto tempo, di chi non è arrivato al personaggio con questa nuova serie di film. Siamo in collegamento con Brigitte Latella, giornalista e grande esperta sherlockiana, di nazionalità svizzera ma esperta internazionale di Sherlock Holmes, alla quale chiediamo proprio come si pone un amante dello Sherlock Holmes classico rispetto e di fronte ai cambiamenti apportati da questa nuova saga cinematografica? Diciamo che si rimane un po' perplessi, perché si conosce uno Sherlock Holmes, diciamo, un pochino più cerebrale, se vogliamo, con le sue parti certo d'azione, che però nel film sono molto spinte. Per cui appunto si rimane un po' perplessi, anche perché alcuni tratti sono davvero un pochino esagerati. Bohemian lo è sempre stato, ha avuto, sappiamo, anche il suo piccolo problema di dipendenza, però è tutto molto molto molto esagerato. Nel film è Bohemian, ma vive nel caos, è disordinato ma non caotico, è come se si fosse voluto portare all'estremo alcuni tratti di quello che è invece un personaggio letterario un tantino più calibrato. Brigitte, vuoi dirci velocemente il sito della vostra associazione di sherlockiani? Molto volentieri, è www.unostudioinholmes.org. Grazie a Brigitte Latella, che ci ha un po' illuminato sul rapporto fra gli sherlockiani doc e questa nuova saga cinematografica. Voglio concludere questa ampia parentesi su Sherlock Holmes ricordando l'uscita in questi giorni dal DVD Sinister Film, distribuito da Cecchi Gori Home Video, di un cofanetto straordinario con dentro 14 film di Sherlock Holmes classici, tutti quelli interpretati da Basil Rathbone e Nigel Bruce. Sono 14 film, 970 minuti di cinema, straordinario, proprio dal mastino dei Baskerville a tutto quello che c'è stato dopo. Sono davvero tanti i titoli che ci restituiscono un po' appunto lo Sherlock Holmes classico, anche cinematografico, quello con la pipa e col cappello per intenderci, anche per farci un paragone, per appassionarsi ancora di più a questo straordinario personaggio. La Rosa Purpurea. Noi insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, è arrivato il momento di analizzare un altro grande film molto atteso sin dalla sua prima presentazione veneziana, il film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia nello scorso mese di settembre. Parliamo delle Idi di Marzo di George Clooney, il ritorno alla regia di George Clooney, che è anche protagonista un po' defilato di questa storia. Il vero protagonista, il personaggio attorno al quale si muove la storia, è Ryan Gosling, uno degli attori del momento, potremmo dire, sicuramente uno degli attori che sono maggiormente emersi negli ultimi due anni a livello di star system hollywoodiano, ma poi con un cast veramente strepitoso nei ruoli di contorno: Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, forse i due più grandi, non dico caratteristi, ma insomma attori appunto con grande profilo di personalità del cinema americano, Marisa Tomei, la ragazza del wrestler, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un film che sicuramente non manca quanto a locandina. Allora, cerchiamo di raccontarlo un po'. Dicevo, la figura centrale è quella di Ryan Gosling, che interpreta Stephen Myers, è un giovane addetto alla comunicazione, di grande talento, molto spigliato, che lavora, collabora con un candidato alle primarie presidenziali per il Partito Democratico. Questo candidato è appunto il personaggio interpretato da George Clooney, il governatore Mike Morris. E allora, questo guru della comunicazione, molto smart, molto sveglio, entra nella fiducia, entra proprio nella manica di questo politico, che sembra essere in svantaggio nella corsa rispetto all'altro candidato democratico, ma poi pian piano comincia a guadagnare terreno, e lo fa grazie al suo carisma, ai suoi continui richiami alla Costituzione americana, ai fondamenti della democrazia americana, però in maniera moderna, in maniera, diciamo, o contemporanea. Ora, sembrerebbe il governatore Mike Morris essere un personaggio tutto d'un pezzo, di cui fidarsi ciecamente, in realtà nasconde, come tutti, un lato oscuro. A un certo punto il nostro Stephen Myers si innamorerà di una stegista, guardate un po' se c'è qualche riferimento con la politica americana degli ultimi anni, si innamorerà di una stegista e verranno fuori un po' gli altarini. Ma cominciamo un po' a entrare nel clima del film, conoscendo i personaggi in questa clip. Steven, sei ancora single? Ho sposato la campagna, governatore. Bella risposta. Tu qui sei una star, mentre io una povera stagista. A che ora lavori domani? Alle 9. Io sono sposato da 11 anni, il che significa che quando non siamo d'accordo, vince lei. Queste le parole in campagna elettorale del governatore. Dicevamo, a un certo punto scocca una passione, più che un amore, fra la stegista e Stephen Myers, e quasi per caso, durante una notte focosa, diciamo così, squilla il cellulare della ragazza. A rispondere è appunto Stephen Myers, che si rende conto di chi c'è dall'altra parte. Chi ti chiama alle 3 del mattino? Non so. Vediamo. Dammelo. No, che non te lo do. Steven, non sei divertente. Dammi il telefono. Pronto? Noi col racconto ci fermiamo qua, dove si ferma il trailer. Non vogliamo andare oltre, perché qui diventa anche un po' giallo, un po' thriller, il plot squisitamente narrativo. Poi invece ci sono le implicazioni, c'è il cambio, il salto della quaglia, come dice qualcuno, il cambio dello schieramento, ci sono le avance dello schieramento opposto, dell'altro candidato democratico per Stephen Myers, c'è questo disegno dell'essere dentro e fuori dal gioco, e che quando è il tuo turno puoi veramente ballare, quando invece il tuo turno non è più, devi semplicemente defilarti. Ci sono tanti insegnamenti morali, e proprio di moralità sentiremo, parlerà anche George Clooney fra poco. È un film interessante per alcuni motivi. Strettamente cinematografico, l'adesione quasi totale a un cliché, a un impianto, a un format cinematografico molto anni 70, figlio del grande cinema di impegno civile americano, che aveva spesso Robert Redford come emblema. E a quel film classico, a quel cinema classico si è sempre rivolto, e non solo idealmente, George Clooney, che non è un innovatore alla regia, tutt'altro, è un regista solidamente classico, forse non con grandissimi colpi d'ala in termini di regia, non solo non innova in termini visivi, ma anche sotto il profilo narrativo. Il film procede con tutti i meccanismi che funzionano, ma che almeno non vanno fuori dal seminato, e questo è già sicuramente un grande risultato. Una tensione emotiva rimane viva dall'inizio alla fine, perché il crescendo dei fatti è sicuramente molto avvincente. È un film anche interessante per un fatto, se vogliamo, politico, perché George Clooney lo basa tutto nel Partito Democratico, non si mette chiaramente da una parte, e sarebbe stato forse troppo facile, anche banale, si mette dentro una parte, si mette nella parte che gli è più vicina, progressista, come si è sempre dichiarato Clooney, per vedere che c'è del marcio in Danimarca, potremmo dire, sì, citando Shakespeare, che anche lui ritorna nelle parole di Clooney. Insomma, ci fa vedere che è il problema della democrazia, dei meccanismi della delega che sottintendono la democrazia contemporanea, ad essere messo in crisi. Non è solo una parte o l'altra parte. E allora andiamo ad ascoltarlo, George Clooney, che, partendo dal titolo, Le Idi di Marzo, spiega proprio quali siano i crismi con cui ha scelto il titolo, e anche quale sia appunto la deriva shakespeariana che questo titolo cela. Le Idi di Marzo è il 15 marzo, che è il giorno in cui tutto questo succede. Abbiamo pensato che alcuni di questi temi sembrano in qualche modo shakespeariani. Lo lasciamo decidere al pubblico chi è Cassio e chi è Bruto e chi è Giulio Cesare. E ognuno ha il suo punto di vista e la sua opinione. Dicevamo film politico, non solo, ci tiene a precisare sempre George Clooney, ma un film anche sulla morale. Io non credo che questo sia un film politico. Potreste ambientarlo a Wall Street, potreste ambientarlo più o meno ovunque, e sono sempre gli stessi temi: la moralità, il fatto che venderesti o meno la tua anima per un guadagno. Io non ho mai pensato che sia un film politico. Mi piacciono alcune delle cose che questi personaggi hanno dovuto fare e la politica è certamente diventata rischiosa. Molti dei film che faccio sono molto personali. Sapete, noi siamo molto fortunati. Ci è capitato di avere un copione su cui le persone volevano lavorare e fortunatamente siamo riusciti a mettere insieme un incredibile cast. Non so davvero come mai siamo stati così fortunati, ma lo siamo stati. Non so a chi dovreste chiedere perché, ma comunque siamo stati molto fortunati ad aver trovato questo cast. E allora era George Clooney, il film Le Idi di Marzo nei cinema italiani da questo fine settimana per tutto il periodo natalizio. È tornato il momento di giocare con il nostro tradizionale DVD game, che poi è un gioco in Blu-ray anche questa settimana. Sentiamo la seconda traccia del film misterioso. È successo di nuovo. Non me lo dire, ti prego. Abbiamo fatto un vero casino stavolta. Si può sapere che problema avete voi tre? Più di uno, non so nemmeno da dove cominciare. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Alleggeriamo il clima cinematografico dopo un film come Le Idi di Marzo, molto impegnato. Andiamo direttamente fra le grinfie del gatto con gli stivali, perché arriva nei cinema italiano questo Puss in Boots in 3D, il gatto con gli stivali, che è una sorta di spin-off di costola di Shrek. Ricorderete in Shrek questo personaggio straordinario che aveva fatto breccia sin dalla sua prima comparsa, se non erro nel secondo o nel terzo film, adesso non ricordo bene, e aveva veramente ammaliato tutti. Allora i produttori hanno detto: beh, perché non facciamo un film dove lui è il protagonista? Ed eccolo qua, il film firmato da Chris Miller. Ovviamente nel cast vocale originale c'è Antonio Banderas, che continua a fare il gatto con gli stivali insieme a una serie di grandi attori come Salma Hayek, per esempio, come Zach Galifianakis, che è uno dei protagonisti del film campione di incassi degli scorsi anni, della saga quasi campione di incassi come Una notte da leoni, Billy Bob Thornton. Ce ne sono davvero tanti. Ottimo anche il cast vocale italiano. Facciamoci raccontare il film dalla nostra Chiara Pizzimenti. Un latte, per favore. Che cosa ci fai qui, signor? Hai perso il gomitolo di lana? Avete fatto arrabbiare il gatto? Ecco che entra in un saloon, un po' zorro, un po' pirata. In realtà, gatto con gli stivali. Stivali conquistati in gioventù, grazie a una prova di valore. Ora è un fuorilegge a causa del tradimento di un amico a forma di uovo. Humpty Alexander Dumpty. Avremo bisogno di lei. E chi ti zampi di velluto? Ti ripulirò e non te ne accorgerai nemmeno. Con l'uovo Humpty Dumpty c'è la gattina Kitty. Insieme condurranno il gatto alla ricerca dell'oca dalle uova d'oro. La leggenda narra di un antico tesoro, nascosto per secoli e sorvegliato dai giganti in un castello in cielo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Come un micino è diventato il gatto con gli stivali. Questo ci racconta lo spin-off della saga di Shrek. Più che della fiaba di Perrault, con cui ha in comune appunto soltanto gli stivali, questo gatto è figlio della serie dell'Orco Verde. Di Shrek ha il mix di riferimenti classici e contemporanei, letterari e cinematografici, da Fight Club a Robin Hood, passando per fagioli magici e conoscenze di Alice nel Paese delle Meraviglie. Siamo davanti a un prequel rispetto alla storia che ha fatto conoscere il micione dall'accento spagnolo di Antonio Banderas. Sono lontane anche le risate e le invenzioni dei primi due Shrek, ma ai bambini il gatto piace. Un po' più difficile comprendere tutto il contorno. Il gatto con gli stivali. Perché è buffo e parla in un modo strano? L'uovo. Perché era tondo e faceva ridere. Il gatto con gli stivali. Perché era molto simpatico. Kitty. Perché era agile. E poi ha ballato. Perché era una guerriera. Sì, per bambini è bellissimo. Il gatto. Kitty perché mi piacevano le zampe. E il gatto perché faceva ridere. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea e ci dedichiamo ai film da vedere in casa fra TV e un video con gli amici di Film TV. Come sempre esploriamo i palinsesti della prossima settimana in televisione, perché abbiamo scoperto così che ci sono due registi che vengono particolarmente proposti nella prossima settimana, molto diversi da loro, assai poco natalizi sotto un certo profilo. Cominciamo subito con Giulio San Giorgio, che saluto, a parlare dei due film che verranno proposti di Olivier Assayas. Ciao Franco, sì, Assayas propone due film, lunedì 19 dicembre su Rai 4 a 00:20 la prima parte di Carlos, 5 ore per raccontare le vicende di Elish Ramirez Sanchez, leggendaria figura del terrorismo anni 70-80, che Assayas trasforma in un'epica umana mai superficiale, in un trattato di geopolitica e storia mai schematico. Assayas si fa beffa di ogni categoria, fa TV insieme a grandissimo cinema, e lo stesso accade in Clean, martedì 20 dicembre su Rai Movie all'1:55, storia di una rocker in declino, dei suoi rapporti familiari in disfacimento, caratteristiche che Assayas tratta al di fuori di ogni retorica con un film aderentissimo alla pelle di una grandissima Maggie Cheung. E invece l'altro regista, che invece verso la fine della prossima settimana sarà molto presente, è il sempre amato John Landis. Esattamente, venerdì 23 Una poltrona per due su Italia 1 alle 21:10 e sabato 24 The Blues Brothers su Rete 4 alle 23:55. Due capolavori di John Landis, cineasta tra i più geniali e seminali del cinema statunitense e tra quelli in fondo più sottovalutati. Qui siamo nel periodo della sua massima grazia, con un classico immancabile delle festività natalizie come Una poltrona per due, una parabola irresistibile sul capitalismo che è anche e soprattutto un fatto umano, e The Blues Brothers, il cult per antonomasia, un classico del cinema dimensionale più anarchico tra note, illuminazioni blues e la coppia formata dal pacato Croyd e lo strabordante Belushi. E insomma, grande, grande cinema e grande musica in questo Blues Brothers. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco e ai radioascoltatori e buone feste. E allora, questi i consigli Film TV per la prossima settimana di grande cinema in televisione. Noi andiamo a giocare con la terza traccia misteriosa del film di oggi. Io venuti a prendere in barca e portati a Bangkok. Una notte da paura, stronzetti. Oh, fermo. Aspetta un momento. Ciao, siamo a Bangkok. Orrare, città della squallare. Straordinario, la rosa purpurea @radio24.it, avrete già ormai in molti indovinato di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Settimana scorsa abbiamo giocato invece con uno straordinario cofanetto in DVD e devo dire con un successo che io non mi sarei aspettato, vista la caratura e anche la qualità e quindi anche la nicchia sotto un certo profilo in cui opera questo grande regista. Sentiamo. Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere. È una questione di educazione. Si trattava di Giorgio Diritti, in particolare il film L'uomo che verrà, ma il cofanetto con cui abbiamo giocato era il cofanetto su Giorgio Diritti, distribuito da Cecchi Gorion Video, uno straordinario cofanetto che mette dentro il film L'uomo che verrà, l'altro grande film che ha decretato il successo di Giorgio Diritti, ovvero Il vento fa il suo giro, e anche un terzo DVD con dentro due film precedenti e quindi ancora più importanti sotto questo profilo. Lo hanno vinto Francesco Siboldi di Valle Crosia, provincia di Imperia, e Piero Dalbon di Cremona. Dicevo, partecipazione disneyana addirittura a questo film, segno, e questo mi fa molto piacere, che il pubblico della Rosa Purpurea comunque riconosce anche da tracce non facilissime film di grande qualità che magari non hanno avuto proprio, diciamo, un incasso da multiplex, ma che hanno una qualità assoluta, come in questo caso. Noi ne parliamo con Claudio Pofi, che è in collegamento con noi. Claudio, allora raccontaci tutto di questo cofanetto. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, è importante questo cofanetto tra i DVD, quattro film di Giorgio Diritti. Il cofanetto contiene, oltre al pluripremiato L'uomo che verrà del 2009, il famoso Il vento fa il suo giro 2005, opera d'esordio che rimase addirittura in programmazione in un cinema milanese per un anno e mezzo, molto importanti anche due documentari piazzati del 2008, ambientato nei prati verdi delle Alpi Occitane, e Con i miei occhi del 2002, nella rigogliosa foresta amazzonica. Sono appunto 3 DVD, 4 opere, la qualità video e audio è sicuramente sopra la media. Ebbene Claudio, questo per quanto riguarda allora il cofanetto, che era il game della scorsa settimana. Recensioni invece di questa, uno dei film più controversi e particolari, anche commoventi sotto un certo profilo, della scorsa stagione, This is England. Perché adesso da bravi gli inglesi aprono i confini e dicano a tutti: accomodatevi, prego, venite giù dalle barche, avete fatto buon viaggio, è stato molto impegnativo, lì c'è un bell'angolino, ti puoi fare un bel negozietto, o meglio ti fai il tuo bel negozietto e dopo ti fai anche una chiesa, seguite le vostre cazzo di religioni, fate pure. E infatti se non c'è nessuno in questo paese a cui venga data una fottuta casa, è perché le danno a loro, io questo lo dico, va bene, perché deve entrare nelle vostre fottute orecchie, qui le case le danno quei cazzo di pakistani. E l'Inghilterra della Thatcher dei primi 80, con il paese in guerra con l'Argentina, seguiamo le giornate di Sean, 12enne, che ha da poco perso il padre nelle Falkland, ragazzo spesso deriso dai compagni di classe, che entra a far parte di un gruppo di skinhead in cui si sente considerato. Tra ragazzate e giornate in cui si è obbligati a crescere troppo in fretta, la banda si troverà ben presto a un pericoloso bivio con l'arrivo di un ex galeotto che incita tutti all'odio razziale più violento. Ritratto agrodolce, in parte autobiografico, del regista Shane Meadows, che fotografa la difficile vita di periferia nel momento in cui l'Inghilterra era sempre più multietnica. Da Officine Ubu, un DVD di ottima qualità video, c'è questa doppia traccia audio Dolby Digital multicanale. Più interessante la DTS, sempre multicanale in italiano. Come extra segnalo 2 interviste al regista, di cui una addirittura di 49 minuti. E ora invece che di un film, vogliamo occuparci di più film, di uno straordinario volto del cinema, soprattutto degli anni 70, il volto di Alain Delon. È suo padre? Le ordino di rispondere. No, lui non risponderà. Avvocato Ritter, sono io che dirigo. In nostra presenza. Se mi permette, lei sta istruendo il processo a Eddie o a Jacques Batkin? Insomma, è il padre o il figlio che le interessa? Vorremmo saperlo, tanto per chiarire le cose. Io non ho bisogno di nessuna lezione. Abbiamo appena ascoltato un estratto da Il figlio del gangster, uno degli inediti della libreria Titanus, finalmente disponibili. Sono ben 6 film che vedono protagonista l'attore francese Alain Delon. Se non si tratta di delle produzioni che lo consacrano a livello mondiale, l'operazione da parte di 01 Rai Cinema è sicuramente degno di nota, dal momento che si tratta di opere inedite per l'on video digitale su DVD, quindi per la prima volta. E allora Tony Arzenta di Duccio Tessari del 73, girato in parte anche in Italia, il drammatico Lo Zingaro del 75, in cui Delon fu anche produttore, Flick Story del 75, abbiamo sentito appunto Il figlio del gangster, in cui Delon era interprete, produttore e cosceneggiatore, nel ruolo di uno psichiatra in quel giorno Il mondo tremerà del 77, e infine dello stesso anno l'interessante La gang del parigino. Sono DVD di dignitosa qualità video, con gli anni delle pellicole che saltuariamente si fanno sentire. Formato immagine non anamorfico, solo tracce audio in italiano e purtroppo nessun extra. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E abbiamo concluso la nostra trasmissione, l'appuntamento va fra 7 giorni, come sempre il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15. Prima di lasciarci però ricordatevi, abbiamo cominciato la trasmissione dicendo che avremmo giocato insieme con una smartbox proprio nel finale di questo nostro programma. Ebbene, da questo momento il primo che ci scrive un SMS con scritto semplicemente smartbox al numero 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, SMS con scritto solo smartbox, vince una smartbox, il cofanetto a tutto svago, cultura, gastronomia, sport per 2 persone. Un saluto da Franco D'Assisi.